Bene, noi non abbiamo ascoltato queste persone che hanno parlato in questo momento introduttorio come dei semplici convenevoli, ma quanto piuttosto per capire il contesto entro cui siamo e anche il contesto che ci dà la possibilità di riflettere su delle tematiche che riguardano le persone umane in quanto tali, credenti o non credenti che siano. In modo particolare io ringrazio della fiducia che mi è stata accordata da Monsignor Roger, che è il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, nell'affidarmi questo convegno e nell'articolarlo, anche nel prendere contatto con i diversi relatori. Mi rendo conto di questa responsabilità che mi sono assunto e cercherò di essere adempiente nel miglior modo possibile. D'altra parte poi ho anche le spalle coperte, perché come avete visto dal programma ci sono dei nomi di tutto rilievo che danno la garanzia, insomma, che in questa mezza giornata e nella giornata di domani tutta intera la possiamo coprire con intensità di contenuti davvero. Mi sento in qualche modo anche in soggezione di fronte a tanti personaggi che vedo in assemblea, uno tra tanti, il senatore Adriano Pompiani, qui con noi, presidente del Comitato Nazionale di Bioetica. L'articolazione del tema, innanzitutto una parola molto necessaria sulla finalità che si proponeva questo convegno di studio, non per eventualmente desistere dall'interesse di molte persone, ma per riquadrare, per davvero avvertire la finalità che si voleva raggiungere, ed è quella di mettere in evidenza l'aspetto cristiano, o perlomeno le caratteristiche del pensiero cristiano, su questi fatti che, ripetono, riguardano tutti. Le possibilità nuove che si hanno di intervento sul fatto biologico, le nuove possibilità scientifiche e di conseguenza le nuove possibilità tecnologiche riguardano fatti che si riferiscono all'essere umano in quanto tale, riguarda il credente e il non credente, ma noi volevamo mettere in evidenza l'apporto specifico che può provenire dalla teologia. E questo mi pare che sia oltretutto necessario oggi che in qualche modo ricordiamo il ventennio della bioetica. Non ricordiamo il centesimo anno dell'aspetto sociale, però anche la bioetica celebra un periodo che costituisce un momento di bilancio. Cioè, 20 anni è un tempo sufficiente per vedere le caratteristiche di questo pensiero etico, le difficoltà, le prospettive, ma soprattutto mettere in luce qual è in questo contesto il particolare contributo o apporto della teologia e della teologia morale. Quindi sì, materialmente era anche destinato ai professori dei seminari, delle università ecclesiastiche, ma credo che interessi il pubblico come tale, anche il mondo laico, conoscere effettivamente quale contributo viene dalla presenza della Chiesa, del pensiero della Chiesa su questi problemi che, ripeto, non sono monopolio dei cattolici o dei cristiani. Infatti oggi noi, come dirò nella relazione, noi assistiamo per la prima volta, forse nella storia della cosiddetta società cristiana, a un fiorire, a una consistenza importante del pensiero laico come tale. E direi che la problematica o la domanda cosa ha di suo il pensiero cristiano da dare e da offrire nasce proprio in questo contesto in cui la presenza maggiore oggi è data dal pensiero laico. Potrò dimostrare, ripeto, nella relazione come la bioetica si muove non soltanto con rivendicazione laica, vuol basarsi cioè sulla ragione, ma di fatto anche quantitativamente le riflessioni sono maggioritarie sul versante laico in quanto tale. Quindi in questo ventennio io credo che una scelta, una specificazione in questo senso abbia un particolare rilievo. L'articolazione più in dettaglio verrà data nella mia relazione, che vuole essere introduttoria, dare un contributo a sé stante, però vorrebbe essere introduttoria anche al convegno come tale, ma credo che un breve excursus, cioè un breve piano di esposizione di questa giornata e mezza, debba essere in qualche modo anche accennato, anche se, ripeto, un quadro più completo verrà dato nel contesto della relazione. Dal momento che ho la possibilità di disporre di un certo tempo, cercherò di valorizzarlo. Bene, nella prima relazione, quella affidata a me, cercherò di problematizzare il rapporto fra bioetica filosofica e bioetica teologica, cioè la bioetica che si basa sulla ragione e la bioetica che vuol fare riferimento alle fonti teologiche, e quindi anche la condizione della bioetica oggi, sia di quella laica come di quella religiosa, e eventuali prospettive che si aprono perché possa essere appunto all'altezza della storia. La seconda relazione, che seguirà alla mia, sarà tenuta da Renzo Gerardi, che è professore della Università Lateranense di Roma, professore di teologia. A lui gli ho dato l'incarico appunto di delineare la concezione di creazione. Perché questo interesse? Perché la novità oggi consiste proprio nel fatto che la natura non appare più come un dato fisso, un dato immobile, è un dato piuttosto che si presenta come un da farsi, è dinamico, evolutivo. Quindi non possiamo più pensare al rispetto della natura come di una qualche cosa, appunto, di una realtà che va riverita per quello che è, quanto piuttosto un domandarsi dell'uomo di migliorarla, di trasformarla, ma in questo miglioramento, in questa trasformazione potrebbe anche degradarla. Comunque l'interesse nasce appunto dal fatto che noi sperimentiamo come la natura non è più una realtà fissa, quindi abbiamo bisogno di riprendere la comprensione del concetto di creazione con quanto viene così in evidenza. Sembrerebbe strano, questa relazione potrebbe essere in qualche modo considerata un po' fuori dalla tematica generale. In realtà io la ritengo una relazione fondamentale, anche per l'etica. L'etica non può dire granché, non può muoversi con una certa rigorosità, se non approfondisce proprio la nozione, la concezione di creazione, la concezione di natura, sia interna come esterna. La giornata di domani prevede nella mattinata tre relazioni. La prima relazione è di ordine storico, cioè si vuole far vedere come ci sia stato il passaggio e come si verifica il passaggio dalla cosiddetta etica tradizionale, etica medica tradizionale, alla bioetica moderna. Cioè nessuna cosa nasce così di punto in bianco, c'è una storia. Io parlavo prima di un ventennio della bioetica, non dobbiamo pensare che si sia incominciato a riflettere 20 anni fa. C'è tutta una storia dietro che va ricostruita proprio per capire il presente. Io penso che la storia non è fatta né del presente, né del futuro, né del passato, ma queste tre dimensioni insieme. Se vuol capire effettivamente bene il presente, bisogna anche ancorarsi bene al... Quindi di ordine storico, è stato tenuto da professor Antonio Autiero dell'Università di Bonn. La seconda relazione era affidata, e spiegherò anche il perché dico che era affidata, a François Malherbe, un nome davvero celebre in questo ambito, molto, molto attento e benemerito anche per la consistenza del pensiero bioetico in Europa. Ha comunicato questa mattina che non può intervenire per indisposizione fisica, e questo, di questo mi dispiace moltissimo, perché tra l'altro lui aveva mandato proprio una settimana fa la sintesi del suo intervento, è un intervento che si preannunciava davvero molto interessante. Questa relazione dunque non ci sarà. Nella terza relazione di domani mattina vi è un problema di frontiera, cioè l'ingegneria genetica affrontata però da un punto di vista argomentativo, cioè cosa vuol dire argomentare dalla natura umana quando si affronta la problematica delle possibilità di trasformazione sul corredo genetico, sul patrimonio genetico. Nel pomeriggio vi è la relazione di Alberto Bondolfi, il quale entrerà nel merito della regolamentazione giuridica. La più parte si fa appello a una necessità legislativa in questa materia, anche per non lasciare tutto allo stato selvaggio, però c'è difficoltà anche da parte del legislatore su come intervenire e su come codificare. Vedremo anche su questo aspetto quali problematiche ci sono e quali orientamenti eventualmente si possono stabilire. Ecco, questo dire come esposizione molto sommaria dei lavori che ci attendono. Sono previste anche delle comunicazioni, mi pare che ci sarà lo spazio anche sufficiente per un dibattito e che credo sarà davvero vivace e arricchente, anche vedendo il quadro di composizione dei partecipanti a questo convegno di studio. Detto questo, io vorrei entrare subito in merito alle prime relazioni previste, e cioè la problematicità del rapporto tra bioetica filosofica e bioetica teologica. Cioè la bioetica, spiegherò poi cosa si intende, è basata sulla ragione e invece una riflessione che fa riferimento alle fonti della rivelazione, cioè la fonte della fede, del messaggio cristiano. La bioetica non è un'etica a sé stante, ma parte dell'etica che, e quindi ha dell'etica i medesimi principi e valori a cui riferirsi. La bioetica non è data come contenuto dalle situazioni soggette alla pratica medica. Si vuol dire cioè che la bioetica non è la semplice continuazione o aggiornamento della tradizionale etica medica, o detta etica professionale sanitaria. Si potrebbe dire, in una definizione molto libera, che la bioetica nasce e accompagna la cosiddetta rivoluzione biologica e genetica. Riguarda cioè quanto si può fare oggi e domani. Dal momento che quanto si può fare tecnicamente non è detto che se lo si debba fare moralmente, ecco che si pone il confronto fra bioetica come riflessione e biotecnica come possibilità di realizzazione. Quindi diremmo che potremmo davvero tenere presente questo concetto, anche se mi rendo conto andrebbe maggiormente articolato. Quando si definisce una realtà bisogna essere un momento più precisi, ma ci serve abbastanza questo concetto di bioetica come la scienza etica che accompagna la rivoluzione biologica, tutto quello che si può fare sul vivente, non soltanto sul vivente vegetale, animale, ma anche sul vivente in prospettiva, sul vivente umano. Bene, di fronte alla consistenza quantitativa e qualitativa della bioetica laica, della bioetica basata sulla ragione, l'etica basata sulla ragione, si domanda di chiarire il rapporto tra bioetica filosofica e bioetica teologica ed in particolare di evidenziare il particolare contributo che la teologia può offrire alla bioetica laica. La domanda di quale contributo la fede cristiana, quindi la teologia, possa dare alla bioetica laica sembrerebbe strana, può sembrare strana, se si considera che fino agli anni 60 il contributo maggiore su questi problemi, problemi della salute, della malattia, della vita e della morte, è venuto dalla Chiesa Cattolica. Altre chiese cristiane e gruppi religiosi si dimostravano scarsamente interessati alla riflessione etica, sia in generale che in questo settore in particolare. Il panorama in questo ultimo ventennio si è modificato. L'egemonia cattolica è venuta meno. altre confessioni cristiane, specialmente gli anglicani e i luterani, a livello sia di gerarchia come di teologi, hanno incominciato ad occuparsi con maggiore frequenza di questi temi. Anche membri di altre confessioni, ebrei, maomettani, buddisti, hanno fatto sentire la loro voce, soprattutto nella letteratura di lingua inglese. Ma il fatto nuovo è dato dal notevole sviluppo della cosiddetta bioetica laica, cioè delle riflessioni bioetiche senza radici religiose, quelle che si basano appunto unicamente sulla ragione. Si hanno numerosi segni di questa presenza nella riflessione laica nel campo della bioetica. Alcuni fra questi segni, che poi sono mediazioni dell'etica di stampo marcatamente laico. Le riviste di bioetica laica sono più numerose attualmente di quelle cattoliche, e molte di queste anche di grande qualità. La promozione di congressi, di seminari su questioni di bioetica, la creazione di comitati etici nazionali o di commissioni governative, la creazione di comitati etici di ospedali, sono altrettante mediazioni, come dicevo, di un'etica marcatamente laica, in cui il pensiero religioso, il teologo non è certamente messo alla porta, però si trova in un contesto tipicamente laico, tipicamente secolare. Ci si trova di fronte ad un pluralismo di proposte bioetiche fino ad un tempo recente, fino a 20 anni fa, certamente, del tutto inimmaginabile. In presenza di un tale pluralismo si domanda quale sia il contributo che può essere offerto da una bioetica teologica, di una riflessione cioè che si rifà alle fonti della rivelazione. In questo ultimo ventennio la bioetica è stata provocata, bioetica sia filosofica come teologica, è stata provocata da un ventaglio di questioni o tematiche che riguardano la nascita e le prime fasi della vita umana, la fase finale o ultima della vita umana, l'ingegneria genetica, la terapia e il nuovo rapporto medico-paziente, dove il paziente acquisisce sempre di più un ruolo di protagonista, i trapianti, la sperimentazione e l'utilizzo degli animali. Queste sono delle tematiche centrali, ma non dico che siano quelle esaustive. Alla domanda su quale sia il contributo della bioetica religiosa, quella elaborata cioè in riferimento al pensiero della Chiesa, la risposta diventa alquanto problematica. La bioetica teologica sarebbe poco teologica, ma filosofica. Dalla vasta letteratura finora prodotta non appare una chiara connessione della teologia con la bioetica, appare invece una chiara connessione della filosofia con la bioetica. Così dice nel 1975, quindi nel massimo sviluppo del pensiero bioetico in quanto tale, un teologo protestante dell'Università di Chicago, Gustafson. Non soltanto dice che la connessione della teologia con le problematiche bioetiche non appare, ma spiega anche il perché, e dà tre tipi di motivazioni. Prima, spesso il fatto che non si sviluppino i fondamenti teologici del proprio lavoro in etica medica è dovuto alla mancanza di interesse per questi fondamenti da parte dei partecipanti alle discussioni su questi problemi. Cioè chi partecipa alle discussioni di questi problemi non interessano i fondamenti teologici, interesserà allora i fondamenti razionali, ovviamente. Secondo motivo, spesso è dovuto allo sforzo per essere convincenti su fondamenti che siano tali da trovare consenzienti persone diverse. Usando la ragione, argomentando ex razione, si può arrivare a tutti. Argomentando ex revelazione sembrerebbe di restringere il campo dell'uditorio. Terzo, l'introduzione della teologia diventa una ragione ingiustificabile per i colleghi secolari di tenere in poco conto quanto uno può dire sull'etica medica, come dire che dicendo, non so, questo la Chiesa la pensa, la prescrive, eccetera, vuol dire togliere autorevolezza a quanto si vuol dire in etica medica. sulle questioni che interessano appunto la vita. A causa di queste o altre ragioni, si conclude, resta il fatto che i presupposti teologici dei ragionamenti in bioetica sono stati trascurati. Questo sarebbe un primo bilancio, un bilancio scarso ovviamente. Di fronte all'etica secolare, all'etica laica, qual è il contributo dell'etica teologica? Ma anche l'etica teologica argomenta anch'essa da un punto di vista filosofico. Una tale posizione mi sembra semplificatrice e largamente in contraddizione con il lavoro dei teologi moralisti di questo ultimo ventennio, dove i ragionamenti in bioetica sono stati evidenziati nei loro presupposti teologici. È stata elaborata, cioè, una bioetica che si muove nell'orizzonte della fede cristiana, nell'orizzonte del messaggio cristiano, nella parola della parola di Dio. Noi non crediamo in un Dio muto, crediamo in un Dio che ha parlato lungo il corso della storia e da ultimo in modo definitivo attraverso Gesù di Nazareth, attraverso la parola di Dio che è contenuta in maniera privilegiata nella Sacra Scrittura. Diversamente che in passato, i teologi moralisti hanno elaborato una bioetica in riferimento alle fonti religiose. Da un'analisi del vasto materiale finora prodotto, sembra emergere una duplice tendenza, cioè in questo riferirsi alla fede cristiana, al messaggio cristiano, sembra che si possa evidenziare una duplice tendenza nell'uso della fede, passi questa espressione abbastanza, non molto propria. Cioè la fede è vista, è considerata secondo delle funzioni diverse. L'una, di gran lunga maggioritaria, si potrebbe chiamare moralizzazione della teologia, e spiegherò. Cioè si attribuisce alla fede cristiana una funzione di ordine etico, una funzione di conoscenza etica. La fede cristiana, si sostiene, non offre soluzioni già confezionate per i problemi concreti. Già Karl Rahner, in modo molto umoristico, parlando a un raduno del clero, diceva: non dobbiamo pretendere che nella Sacra Scrittura ci sia la soluzione di liceità o no sulle procreazioni assistite, sulla fecondazione artificiale. Cioè, in questo caso diceva delle parole molto dure, molto forti, contro un uso fondamentalista, un uso deduttivo della Sacra Scrittura, come fosse una tabella da cui si tirano poi fuori tutte le soluzioni per i problemi che via via succedono alla storia. La storia presenta problemi del tutto inediti rispetto all'uomo biblico, al popolo biblico. Quindi questi teologi che considerano la fede in funzione etica, in funzione di conoscenza etica, non è che pensino che dalla Sacra Scrittura ci siano le soluzioni concrete di problemi specifici, appunto perché sono davvero del tutto inediti. Però nella fede, nell'orizzonte della fede, si evidenziano, ecco, delle prospettive o dei criteri o dei valori moralmente significativi per l'agire umano. Ecco, vengono chiamate prospettive moralmente rilevanti. Questi teologi che si muovono in questa direzione, cioè che considerano la fede in funzione conoscitiva etica, ritengono che lo stesso Vaticano II avvalli questo modo di considerare la fede cristiana. Infatti al numero 11 della Gaudium Express si legge: la fede getta una nuova luce su ogni cosa, manifesta il disegno di Dio per la vocazione totale dell'uomo e così orienta la mente verso soluzioni che sono pienamente umane. Quindi si dice che la fede non dà soluzioni, dà la visione dell'uomo, del mondo, entro cui la mente umana può portare a soluzione umana e umanizzante tutti i problemi che via via nel corso della storia si incontrano. Uno per tutti, un teologo, McCormick, ad esempio, evidenzia una serie di prospettive moralmente rilevanti per la bioetica. Ripeto, non una serie di soluzioni, ma una serie di prospettive moralmente rilevanti per la soluzione. È proprio in bioetica. Egli ne numera 6. e gli dice che non sono del tutto esaustive, ce ne possono essere anche altri, ma quelle che dice sono abbastanza forti, abbastanza pertinenti. Quali sarebbero queste prospettive moralmente rilevanti per la bioetica? Primo, la vita come valore fondamentale, ma non assoluto. Questa è un'affermazione chiaramente biblica teologica. Che dà soluzioni concrete a questa affermazione? No, però si vede subito che c'è un orizzonte entro cui le soluzioni concrete si possono trovare. Ad esempio, io posso già intuire: la vita è valore fondamentale, ma non assoluto, perché non è assoluto. Perché ci sono dei valori ai quali io la posso sacrificare. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per coloro che ama. Quindi ci sono dei valori, quindi valore assoluto, ma non assoluto. Quindi allora vuol dire che non tutti i mezzi sono dovuti, si debbono usare tutti i mezzi per conservare la vita. Cioè ci sono delle direzioni generali, non c'è la risposta concreta a nessun problema particolare, ci sono delle direzioni generali entro cui si può trovare, ma andiamo con ordine. Insomma, prima, la vita come valore fondamentale ma non assoluto. Seconda prospettiva moralmente rilevante: estensioni di questa valutazione alla vita nascente. Terzo, il potenziale dei rapporti umani per la valutazione della vita fisica. Quarto, la socialità radicale della persona, la persona che non si definisce nella sua individualità soltanto, ma appunto nella sua essenziale socialità, comunitarietà. Il nesso fra aspetto unitivo e procreativo della sessualità umana, dato biblico, dato teologico, non risolve nessun problema specifico, non risolve il problema della contraccezione, non risolve il problema della sterilizzazione, ma che ci sia una connessione fra unione e procreazione, ecco, questo è certamente biblico. Nessun amore senza procreazione e nessuna procreazione senza amore come dato di fondo. L'unione eterosessuale permanente come normativa. Ecco, l'uso della scrittura, per riprendere il filo del discorso, è visto in chiave conoscitiva etica, ma non nel senso che ci siano soluzioni determinate, concrete per problemi specifici, ma ci sono prospettive o criteri o valori di fondo entro cui si possono prendere delle decisioni, o si può portare a soluzione umana i problemi concreti che via via si pongono. L'esemplificazione la lascio, anche perché ho già usato alcune espressioni che danno. Cioè, la fede non fornisce una risposta diretta su problemi specifici, ma la fede risponde su prospettive di grande ampiezza entro cui si possono portare a soluzione, ripeto, umana e umanizzante i diversi problemi specifici. Chiosando un po' su questa, quello che si trova nella Sacra Scrittura e quello che non si trova delle risposte specifiche, ma si trovano delle prospettive moralmente significanti, ecco, direi, tali prospettive, come si è detto, e ripeto, non offrono risposte concrete a problemi concreti, ma appunto prospettive entro cui affrontare i problemi. Uno. Secondo, tali prospettive non sono misteriose. Non sono misteriose, cioè non sono impervie alla ragione. Sono specificamente cristiane, nel senso che il cristiano non può non ritrovarsi in queste prospettive, ma non sono esclusivamente cristiane, tanto che uno che non è pervenuto appunto alla fede non possa ritrovarsi da un punto di vista razionale, cioè non sono impervie alla ragione. Pensate ad esempio al valore della vita come valore fondamentale ma non assoluto, è un'affermazione di carattere biblico, ma non impervia alla ragione. Il nesso fra procreazione e sessualità, fra amore e procreazione, è chiaramente un dato biblico-teologico, ma non è impervio alla ragione. Quindi queste prospettive non sono misteriose, nel senso che non sono impervie alla ragione. Terzo, tali prospettive sono prospettive ideali, nel preciso senso che sono di orientamento alla realtà, non sono fuori dalla realtà, anche se la realtà è molto lontana da queste, ma sono di orientamento alla realtà. È questa medesima tendenza che avvicina la fede cristiana, le fonti della fede cristiana in chiave conoscitiva etica, è seguita anche dagli autori, che inquadrano le questioni bioetiche entro le categorie dell'amore e della giustizia. Tali categorie, che sono centrali nel messaggio cristiano, vengono usate come principi per giudicare azioni, istituzioni e quasi mai come virtù o disposizioni ad agire in un determinato modo. In altre parole, la preoccupazione è normativa e in ordine a questo ci si limita a verificare se e in quale modo la carità e la giustizia siano fonti di specifici diritti e doveri. Ad esempio, se il dovere di partecipare alla ricerca medica non terapeutica discenda dalla carità o dalla giustizia. Di nuovo c'è un uso di queste categorie centrali in ordine tipicamente normativo, cioè quali doveri discendono dalla giustizia o dalla carità, o se eventualmente discende dall'uno o dall'altro. In conclusione, i teologi moralisti di questa tendenza, che abbiamo chiamato della moralizzazione della teologia, cioè la teologia in funzione della morale, riescono a elaborare un'etica ispirata alla teologia, da cui appunto individuano i valori etici fondamentali. Resta tuttavia l'impressione, e forse più che l'impressione, che il lavoro per articolare tali valori alle problematiche concrete sia ancora in buona parte da fare. Infatti questi moralisti rimangono al livello dei principi molto spesso e la realtà o situazione viene incardinata immediatamente a quel livello, cioè viene la realtà in qualche modo spossessata dalla sua particolarità, dalla sua concretezza e dalla sua complessità. Cioè c'è un calo, una discesa immediata dai principi alla realtà, tanto che la realtà viene riportata immediatamente al livello dei principi. Oppure, viceversa, in un'attenzione più forte alla realtà si perde di vista l'idealità, è il cosiddetto situazionismo, per cui ogni problema viene visto a sé stante senza nessun collegamento. Il risultato è che i principi non si mostrano adeguatamente integrativi della realtà nella sua singolarità e concretezza, è quello che si dice, in base all'uomo generico, si offende e si mortifica l'uomo concreto. Oppure in base all'uomo concreto si perde di vista l'uomo generico. Cioè non c'è collegamento fra universalità e particolarità. Laddove la universalità non tiene conto della particolarità, oppure la particolarità non si lega, non si collega alla universalità. La seconda tendenza. Vi è una tendenza che si potrebbe chiamare, la prima l'abbiamo chiamata moralizzazione della teologia, cioè vede la teologia in funzione etica, conoscitiva. Questa si potrebbe chiamare teologizzazione della morale. E spiegherò in che senso si intende. Questa è poco sviluppata nella letteratura bioetica oggi disponibile, almeno dal quadro che possiamo fare di questo ventennio. In questa tendenza si sostiene che l'uso della fede per la conoscenza morale, sia pure per tirar fuori quelle prospettive moralmente rilevanti di cui parlavamo prima, non certamente le soluzioni concrete, l'uso della fede per la conoscenza morale è più che legittima. Ma si osserva con energia che la fede non è riducibile a questo tipo di apporto in nessun ambito dell'agire umano, e meno che mai nelle questioni bioetiche. Limitare l'impatto della teologia sulla bioetica significa ridurre il significato della fede cristiana a pura banalità. Un'etica che si ispira alla fede deve spostare l'attenzione dalle caratteristiche dell'azione, vale a dire dalla coppia, dai termini giusto o sbagliato, che si riferisce appunto all'azione, deve spostare l'attenzione dalla coppia giusto o sbagliato, che si riferisce all'azione, alla caratteristica della persona e del suo atteggiamento, cioè alla coppia buono-cattivo. La coppia buono-cattivo si riferisce alla persona, all'atteggiamento della persona. Ciò significa considerare e riflettere sull'influsso trasformante dell'esperienza della fede e su ciò che questo significa per la bioetica. La vita morale va interpretata come vita di amore, la vita morale cristiana. L'amore è la sostanza della rivelazione divina ed è la virtù centrale della vita morale cristiana, la virtù da cui dipendono tutte le altre. I teologi moralisti che si muovono in questa direzione non considerano tanto la fede cristiana come fonte di conoscenza morale, quanto piuttosto come fonte di atteggiamenti e di disposizioni del soggetto. Così ad esempio Auermas, teologo protestante, alla domanda se e come la medicina abbia bisogno della Chiesa, potremmo dire di una bioetica religiosa, risponde che la medicina ha bisogno della Chiesa non tanto per i suoi insegnamenti morali, quanto piuttosto per la sua presenza quale segno e richiamo di un'altra, sottolineato, presenza. Testualmente gli dice così: la Chiesa è costituita da persone che sono fedeli tra loro, con la volontà di rendersi presenti reciprocamente, nonostante le vulnerabilità umane. La Chiesa, afferma, non ha bisogno di sostenere rivendicazioni morali, ma deve piuttosto condividere la veglia di coloro che soffrono per la lunga fatica. È questa veglia condivisa che suggerisce un'altra presenza, una presenza trascendentale. È proprio questo che la Chiesa può insegnare alla medicina, come essere presenti a persone deboli, non tanto dunque una Chiesa come maestra di morale. È questo il motivo per cui la medicina ha bisogno della Chiesa. Altri teologi, sempre di questa medesima tendenza, di questa seconda tendenza, sostengono che il valore potenziale della teologia per la bioetica deve essere speso soprattutto nella individuazione e fondazione del significato della vita, del significato della sofferenza e della morte, un compito che l'etica secolare o filosofica non può assolvere o non può assolvere adeguatamente, ed è un compito che l'etica teologica non ha assolto. Dopo aver dato questo quadro, dopo tutto positivo, e che contraddice un giudizio che ho detto prima negativo, nel senso che la bioetica teologica non sarebbe stata elaborata, è stata elaborata secondo questa duplice tendenza, non voglio dare l'impressione che la bioetica sia in condizioni felici, vorrei anzi dimostrare che è in difficoltà. Sia la bioetica laica, come do per scontato, ma anche la bioetica religiosa. È stata la biogenetica, con le sorprendenti possibilità attuali ed ancora più con quelle potenziali, che risospinge indietro il dibattito etico e precisamente lo riporta dalle situazioni di casi specifici agli elementi fondamentali. Dopotutto, l'etica medica tradizionale aveva a che fare con una scienza medica che si muoveva nell'ambito della naturalità delle cose e della biologicità dell'uomo, considerata come realtà data piuttosto che come realtà da farsi. Ora invece la bioetica, laica e religiosa, deve misurarsi con un sapere scientifico e tecnologico che creano in alternativa al naturale. Si pensi alla fecondazione artificiale, che è alternativa e non solo migliorativa della modalità naturale della procreazione. Si pensi alla bioingegneria genetica, che non si propone soltanto una funzione curativa, terapeutica, ma perfettiva. Si tenta di produrre animali transgenici, piante transgeniche e forse anche esseri umani più desiderabili di quelli attuali. risulta evidente che la biogenetica non rappresenta un capitolo accanto agli altri, ma il capitolo attorno al quale e dall'impostazione del quale dipende l'intero castello dell'etica attenente alla vita umana e non soltanto di quella. Non a caso il nostro convegno di studio dà una relazione esplicitamente a questo tema, la relazione che terrà Francesco Compagnoni domani. Già nel 1959 Jean Rostand prevedeva che la genetica avrebbe offerto all'uomo le più grandi possibilità di manipolare e di trasformare l'uomo stesso. Un inventario delle pratiche tecniche disponibili è stato redatto da François Gros, giustamente François Malherbe, che doveva essere relatore del nostro convegno, osserva: comunque vadano le cose, il tema delle manipolazioni genetiche sarà in futuro oggetto di numerose e vivaci discussioni e sarà un'occasione privilegiata per porsi in maniera particolarmente acuta la questione della natura umana. L'etica laica. Di fronte alle nuove possibilità scientifiche e tecnologiche, in ordine alle decisioni da prendere, mostra un pluralismo selvaggio. Ci si domanda quale sia il punto di riferimento per il giudizio morale, il punto di riferimento per la valutazione morale. Esiste un ordine morale oggettivo a cui riferirsi? E qual è? In presenza di giudizi etici in cui l'uno elide l'altro, si deve forse concludere che la morale è solo questione di preferenze personali? Il giudizio morale si riduce forse ad un mero calcolo utilitaristico dove il tutto si gioca su un inventario tra benefici desiderabili da un lato e rischi prevedibili e da contenere al più possibile dall'altro? Si riconosce che non tutto quello che si può fare tecnicamente lo si possa anche moralmente fare. C'è un limite. La questione del limite è intrinseca alla libertà responsabilità. Ma quale limite? Dove individuarlo? E poi, il limite è forse qualcosa da superare? Oppure, viceversa, una soglia di fronte alla quale bisogna fermarsi? Il cammino dell'umanità non è forse ricostruibile come un continuo superamento del limite? Ancora, è necessario un autocontrollo della comunità scientifica e insieme un controllo della comunità civile, ma in base a quali criteri diviene possibile stabilirlo? Dopotutto, una soluzione al problema o ai problemi per via legislativa stabilisce il discrimine tra ciò che è legale e ciò che è illegale, ma non necessariamente tra ciò che è giusto e sbagliato. La cosa legale può essere ingiusta. Cosa illegale potrebbe essere giusta. Definire le cose per via legale vuol dire stabilire il discorso, la differenza fra legale o illegale, ma non necessariamente fra giusto o ingiusto. L'etica laica si trova spiazzata. Si ripensi alle tante volte che abbiamo usato il termine pluralismo e una volta anche come pluralismo selvaggio. L'etica laica si trova spiazzata e quella religiosa? La categoria forte, fondativa e giustificativa della normativa morale nell'area della medicina è la santità della vita, che viene posta in un contesto pienamente teologico, non nel senso che il cristianesimo conferisce alla vita umana una santità che essa non possederebbe, ma nel senso che rende capaci di riconoscere una santità che potremmo altrimenti ignorare e che potremmo non essere in grado di difendere sempre e comunque. Da ciò si arguisce che l'etica cristiana, ha trovato un fondamento, ha trovato l'assoluto, è in grado cioè di fondare un'etica assoluta con pretesa di universalità. C'ha un punto di riferimento ben preciso. Tuttavia, se non può non esserci consenso sul significato privilegiato di questo valore, è anche vero che molti problemi bioetici riguardano proprio questo stesso concetto centrale. Sono problemi non perché sia dubbio o invalido il concetto, ma perché non risulta sempre chiaro ciò che esso esiga nei casi particolari, che si presentano spesso in modo conflittuale. Così, ad esempio, nessuno pensa che sia legittimo sopprimere un essere umano, ma non tutti sono d'accordo sul momento iniziale della vita di un essere umano. In altre parole, la morale cattolica in riferimento a molte problematiche appare più affermativa che argomentativa, più limitativa che promotiva, non sufficientemente in grado, si dice, di integrare il processo scientifico e tecnologico, perché in essa, nella morale cattolica, sembra prevalere un'opzione pregiudiziale a favore del processo naturale. Tali critiche non sono del tutto condivisibili, tuttavia si può convenire nel fatto che la morale cattolica sconta in questa incapacità propositiva il più che secolare abbandono delle fonti teologiche, e questo da quando si è costituita in disciplina autonoma dalla teologia sistematica e dalla stessa Sacra Scrittura, seguendo prevalentemente, anzi esclusivamente, un argomentare ex legge naturali. Paradossalmente, ora si accorge che sarebbe maggiormente di aiuto alla bioetica filosofica, alla bioetica laica, proprio recuperando la prospettiva teologica. In verità, i teologi moralisti, quando affrontano i problemi posti dall'ingegneria genetica e riproduttiva, adottano la concezione dinamica della natura cosmica e umana, superando così una concezione statica e fissista. Ma a partire dalla concezione dinamica della natura, non si va al di là dall'affermare che non si può essere contrari a priori a tali possibilità della genetica, appunto perché la natura non è un dato fisso, è un dato mobile, evolutivo. Quindi non si può essere del tutto contrari, o almeno non si può essere contrari a priori alle possibilità neanche della manipolazione genetica. Non si va al di là della solita e pur valida tesi del dominio della natura conferita all'uomo dal creatore. Non si va al di là della solita e pur valida tesi dell'abbandono della gerarchizzazione della realtà che attribuisce valore finale all'uomo e valore strumentale agli esseri viventi. Ecco il perché il convegno di studio prevede una relazione esplicita formale sulla teologia della creazione come fondamento e fondazione della stessa etica. Resta comunque il fatto che di fronte, mi avvio alla conclusione, resta comunque il fatto che di fronte alla possibile trasformazione della natura e dell'uomo stesso, la categoria teologica chiamata in causa è particolarmente significativa per i problemi dell'attuale rivoluzione nucleare, biologica e informatica, è quella della creazione. La categoria più chiamata in causa, almeno per una etica che vuole dirsi teologica, è la categoria della creazione, e questa creazione è collegata a quella della escatologia. Con puntuale avvertenza storica, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, il MEIC, già nel 1987, faceva notare che la ricerca teologica sulla creazione appare di grande interesse e attualità per un'adeguata comprensione dell'attività dell'uomo. La categoria teologica della creazione, come vedremo molto più ampiamente dalla relazione di Renzo Gerardi, non fonda certamente un'etica di obbedienza all'ordine naturale costituito. Penso che non sarà questa, senz'altro non sarà questa la conclusione a cui perverrà. Dalla teologia della creazione non si verrà a fondare un'etica di obbedienza all'ordine naturale costituito, bensì un'etica di obbedienza a un ordine naturale da costituire, alla cui costruzione la scienza e la tecnica diventano strumenti preziosi. La teologia della creazione fonda di certo una certa visione di controllo del nostro rapporto con il mondo naturale interno e esterno, visione di controllo, senso del controllo, se volete anche senso del limite, della responsabilità. L'intelligenza dell'uomo e la sua libertà non è impedita, ma è abilitata a comprendere i limiti, non già come barriere di fronte alle quali ci si deve arrendere o viceversa oltrepassare ad oltranza, quanto piuttosto come pause finalizzate a decifrare quale migliore passo in avanti deve essere fatto in ordine all'assunzione di responsabilità per la vita. La natura da sviluppare nel senso della creazione costituisce un criterio oggettivo a cui riferirsi con intelligenza e con sapienza. E questo ci sembra l'intuizione profonda del concetto tradizionale di legge naturale. Non voglio anticipare quanto dirà Francesco Compagnoli domani, però mettere sul punto già problematiche che saranno di ulteriore approfondimento. L'intuizione profonda del concetto tradizionale di legge naturale, cioè la natura, costituisce un criterio di riferimento importante per l'agire umano. Tuttavia, affinché tale categoria della natura, della legge naturale, riprenda rilevanza etica, occorre ricollocarla nel contesto di una creazione che nel disegno del creatore è realtà dinamica ed evolutiva, vale a dire chiamata al suo compimento. Non si tratta di piegare l'uomo alla natura, al contrario bisogna saper leggere e decifrare la natura in ordine all'uomo. In tale prospettiva, ciò che è naturale, come valore rilevante, non va inteso e identificato con un certo processo fisiologico, la cui integrità deve essere mantenuta ad ogni costo. Va invece identificato con l'obiettivo umanamente significativo che il processo fisiologico normalmente promuove e esprime. Se ci pronunciamo a favore della natura, non sarà in quanto è natura, ma in quanto lì oggettivamente sono salvaguardati dei valori che in un procedimento artificiale sarebbero invece compromessi. Se la morale cattolica, ad esempio, si pronuncia positivamente e solo per la modalità naturale nella procreazione, vuol dire che la modalità naturale non è sposata in quanto è naturale, quindi non è contraria all'artificio in quanto artificio, ma vuol dire semplicemente che nella modalità naturale oggettivamente sono salvaguardati importanti valori che nella modalità artificiale sono in qualche modo compromessi. E l'argomentazione corre su questo filo. Nella modalità naturale infatti vi è la personalizzazione dei coniugi nella trasmissione della vita. Nella modalità naturale vi è la salvaguardia della vita come dono, come attesa, non come fabbricazione. E non si parla delle singole persone, delle motivazioni delle singole persone, ci si pronuncia a favore di un ordine naturale, ma ripeto, non in quanto è naturale, perché non sarebbe più un argomento, un criterio, il naturale si sposta sempre di più, non è più un criterio di riferimento. Ci si deve pronunciare volta per volta per una modalità naturale, intanto in quanto lì oggettivamente vi è la salvaguardia di importanti valori umani, quindi il naturale in quanto significativo per l'umano. Questo va verificato ovviamente volta per volta, non va detto come principio assoluto. Però noi abbiamo a che fare anche con delle proposte concrete, cioè delle risposte concrete. Direi che la Chiesa Cattolica è l'unica agenzia educativa che ha pronunciato giudizi su questioni concrete. Bisogna salvaguardare il naturale in quanto significativo per l'umano, ma qui è salvaguardato l'umano nel procedimento naturale oppure no? Si dice che il procedimento artificiale non salvaguarda importanti valori umani che invece nella modalità naturale sono salvaguardati. Quindi, ecco una prima domanda, è proprio del tutto da abbandonare quella distinzione che ormai nell'ambito della morale cattolica emerge sempre di più. Distinzione fra tecniche che aiutano la natura e tecniche invece che sostituiscono la natura. Tecniche che migliorano la natura e tecniche che sono in alternativa alla natura. Questa distinzione che incomincia a emergere nella bioetica cattolica potrebbe essere un argomento da approfondire, eventualmente un contributo specifico che la cultura cattolica può dare nei confronti delle altre culture. In conclusione, ci sembra che una rinnovata, così lo stesso ragionamento vale anche per la manipolazione genetica. La morale cattolica dice di sì alla manipolazione genetica di tipo curativo e di no alla manipolazione genetica di tipo perfettivo. Di nuovo abbiamo qui delle tecniche che si pongono in alternativa alla natura, questa sarebbe la manipolazione genetica perfettiva, migliorativa. Poi abbiamo la manipolazione genetica di tipo curativo, sì, perché lì si tratta di una scienza, di una tecnica che è di aiuto alla natura. La natura non è un dato perfetto, è un dato da migliorare, ha bisogno della scienza e della tecnica. In conclusione, ci sembra che una rinnovata teologia della creazione possa contribuire efficacemente all'elaborazione di un'etica della responsabilità per la vita. Un'etica che non ha paura di sapere e di potere di più, non c'è bisogno di equalizzarsi per mettere in mora la scienza e la tecnica. Quello che sappiamo, oltretutto, non è ancora quello che dovremmo sapere per risolvere appunto tantissimi problemi. Un'etica che non ha paura di sapere e di potere di più, anzi un'etica promotiva e integrativa delle conoscenze, delle nuove possibilità per una piena umanizzazione. Tuttavia è necessario essere consapevoli che per sostenere una percezione e una pratica del bene umano, del bene cosmico, si richiede un mondo di origine e di provenienza, oltre che di destino e di compimento. Il bene umano e cosmico è infatti già compromesso in un mondo di mutabilità e di trasformazione in cui l'Homo Faber, dimenticando l'Homo sapiens che è in lui, cavalca senza sosta e senza direzione tutte le possibilità promettenti. Il bene umano e cosmico è già compromesso in questa logica e in questa dinamica. Concludendo, il cristianesimo, come pure la conoscenza delle tradizioni delle grandi religioni, con le loro concezioni sulla vita, dell'universo, della storia, possono recare allo scienziato e al filosofo un contributo decisivo per la formazione di un'etica della vita che sia valida per tutti. L'attesa, non soltanto di questo convegno, dei lavori che ci attenderanno, l'attesa è per la elaborazione di un'etica teologica propositiva e non soltanto limitativa, capace di dare senso e direzione alle nuove conoscenze scientifiche e alle nuove possibilità tecnologiche, un'etica che sappia rapportarsi alle etiche laiche non soltanto in termini di giudizio e di correzione, ma anche e soprattutto come apporto di motivazioni, di speranza e di incoraggiamento che si risolva in positività per l'umanità. Grazie dell'attenzione.